questa è una delle più grosse schifezze che poteva essere interpretata nei confronti dello sport, perché sembrano non più una ristrutturazione, ma vengono gli uni a distruggere. Lei pensi che hanno chiesto 12.000 metri quadri in più di cubature, tenga presente quindi di aumento della superficie per costruire. Lei pensi che il supermercato, che è stato bocciato a suo tempo, della Despa, ne prevedeva 2.500. Vogliono distruggere il centrale, il fiore all'occhiello di Bologna con 2.000 posti dove ci hanno fatto gli internazionali, più una palestra polivalente con un tetto che a suo tempo viene portato dal Trentino, che costa tantissimi soldi, 300 posti macchina, diminuzione del basket, e la ciliegina, non c'è più il tennis, come a 5 km da qui a Casaleggio facciamo la Coppa Davis, al CRB, il più importante circolo di Bologna del tennis, abolito il tennis. Se ne sembra una cosa normale questa qui, se è ragionevole per una città importante come Bologna, che vuole essere il vanto della sportività, e fanno qui e portano il giro e portano la Coppa Davis. Ecco, questa è la situazione, noi ci stiamo ribellando perché veramente è un confronto. Secondo anche il mio punto di vista, quello che manca è una guida politica. Il sindaco, che prima era assessore dello sport, non so, 5 anni che non dice niente. L'assessore Licalzi non dice niente, io gli ho chiesto anche un ulteriore incontro per aiutarla, per capire meglio, ma ha detto di no. Questa è la situazione. Da notizie di stampa il comune comunque starebbe valutando questo progetto, non ha ancora dato un ok. Queste sono le famose frasilogie di cose fatte, perché questo progetto è in spregio anche ai vincoli cimiteriali. Siamo vicino alla Tettosa, sono i vincoli cimiteriali. Può darsi che loro, la Gofit, hanno presentato questo tipo di progetto palesemente in urto contro le cose urbanistiche per farsi dire di no, eh? Perché poi anche il modello che propongono è il modello che c'è Virgil La Praine, che non è che tu attraverso le palestre lì che hanno chiesto 43 anni e 15 milioni di investimento arriva gente, milionate e milionate di persone, un po' come voleva fare con Figo. Quindi anche da un punto di vista del business, noi gli facciamo un favore che siamo contro, perché loro ci rimettono. Quello spazio è in stato di abbandono, però se dovesse andare in porto questo progetto non sarebbe più un punto di riferimento per il quartiere? Ma no, non è quello il problema, è perché vogliono distruggere tutto, e vogliono distruggere l'essenza, l'anima del tennis. Quindi non è che il problema, perché poi viene tutto distrutto e per fare due o tre palestre in più, poi dire il prossimo anno non vi è nessuno, lo riconvertiamo a edifici, a supermercati. Ci sono anche questi, perché una volta che è distrutto, eh. Non è che ci siano più i mezzi termini. Allora noi ci opponiamo perché vogliamo un progetto serio di ristrutturazione complessivo del circolo con tutti gli sport. Lei pensi che addirittura del CRB alla pallacanestro, che è fondamentale per Bologna, si è allenata la Virtus, la Fortitudo, la nazionale. Io vedevo con Messina, con tutti i giocatori della nazionale che giocavano dentro il CRB, e lì si vogliono ridimensionare. Ma secondo lei è normale questo? È normale anche cittadino, è normale. Questo è la responsabilità anche del Bologna e Bologna Calcio. Ecco, un'altra cosa ben interessante, il Bologna Calcio è d'accordo su questo tipo di progetto? Cosa dice il Bologna Calcio? La sensazione è che sia un progetto pensato per fallire, per poi magari cambiare destinazione d'uso? Può darsi, dire che vogliono 12.000 metri di cubature in più e in spregio ai vincoli cimiteriali è palesemente per farti dire no. Non lo so, sono tutte ipotesi, perché io, se devo fare un progetto, la prima cosa che faccio, guardo l'area, dice cosa posso fare all'interno dell'area. Questi invece se ne sbattono, queste sono sensazioni, capisce?